Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. La ceramica, dal greco antico keramos, che significa argilla, terra da vasaio, è un materiale composto inorganico, non metallico, molto duttile allo stato naturale, rigido dopo la fase di cottura. Almeno questo dice Wikipedia, sei d'accordo? D'accordissimo. Questo dice un po' riduttivo, per fare una sintesi però. Certo, però noi abbiamo trovato questo. Quindi intanto benvenuta anche qui ad Ondivago, Sandra Baruzzi, artista della ceramica. Si dice ceramista? Sì, anche. È giusto, sì, ceramista. Sì. Sandra è anche insegnante a Castellamonte, nella sua disciplina, poi ci parlerà meglio della sua attività anche di insegnante, e proprio a Castellamonte ho avuto modo di visitare il suo atelier, che si trova in centro, se non erro, a Castellamonte. E quindi che cosa volevo dire? Un'altra cosa. Tu ti definisci, Sandra si definisce, questa cosa sul suo sito, sandrabaruzzi.it, di razza umana, amante di vita, amore e varia umanità. Come ti è venuta in mente questa? Allora, visto che non sono giovane quanto te, negli anni si accumulano delle esperienze, delle attività, si fanno mostre, e io, come puoi aver visto dal mio sito, non mi occupo solo di ceramica ma di altre cose e di vita, per cui il curriculum diventa sempre una cosa sempre più lunga e sempre più difficile da digerire per chiunque, sia certo, perché deve aggiornarlo, ma poi penso anche a chi deve leggerlo, che proprio non si legge. È una notte stanca, in previsione di un mio futuro prossimo catalogo, stanca di queste pagine che poi insomma non sai bene a cosa servono, a chi servono, che nessuno legge, ho detto devo fare una sintesi, e così mi è venuta questa sintesi. Prima di tutto siamo delle persone, quindi in questo caso ho fatto una dichiarazione verso il genere umano, e dopodiché come mi esprimo e come mi piace stare a questo mondo. Mi pare una dichiarazione molto ampia che va dal di là, però bella sicuramente. Però ritorniamo sul tema della ceramica, che tentavamo anche di affrontare un po' venendo qui in auto, no? Perché dicevamo appunto che la ceramica, anche fra coloro che conoscono l'arte contemporanea, addirittura hanno studiato storia dell'arte, sembra un po' un parente un po' messo da parte di tutta questa famiglia artistica. E quindi volevamo proprio forse ritornare all'origine. Tu sei anche insegnante, quindi come spiegheresti l'origine della ceramica, ma proprio in maniera semplice, a qualcuno che di ceramica non sa più nulla, magari figlio del postmoderno, ha in mente soltanto più la plastica, vive soltanto più in un mondo di plastica, e dice: ma la ceramica che cos'è? Dunque sì, la ceramica ha origini che si praticamente trovano con la presenza dell'uomo, quindi sono antichissime. Perché? Perché è un materiale argilloso, quindi non è altro che terra. E non a caso ci sono i centri di arte della ceramica, e questi centri si sviluppano proprio dove ci sono i siti archeologici di materiale ceramico, quindi delle argille proprio, che possono essere di diverso tipo, silice, calcare, eccetera. Adesso non vorrei entrare nello specifico e fare una lezione proprio di quelle. In realtà è fin da subito servito per tantissime necessità dell'uomo, la prima ciotola dove poter contenere il cibo, dopo la mano, dopo la conca della mano, è stata proprio la ciotola fatta su impronta della conca della mano per contenere il cibo. Del corpo, poi hanno gli umani osservano sempre le cose casualmente, no? Le grandi scoperte avvengono con l'osservazione di quello che ci circonda. Lasciando questa argilla al sole prendeva sempre più consistenza e si rafforzava, quindi di lì si è passato ad avere la possibilità di utilizzarlo come contenitori di oli, di acqua, e Tant'è vero che proprio nei letti dei fiumi si trova l'argilla, e l'acqua scorre e rimane tale, non viene penetrata proprio perché ci sono le particelle plastiche, organiche. Di conseguenza, diciamo che ha accompagnato proprio tutto il nostro percorso umano, insomma, dalla storia fino ai giorni nostri, cambiando tantissimo, perché ovviamente c'è un'evoluzione. Man mano cambiano le tecnologie, si cambia anche l'uso, l'utilizzo, le caratteristiche di questi materiali. Prima, quando dicevi considerato un'arte quasi un po' sconosciuta, direi che sembra stato considerato un po' un'arte minore. Oggi devo dire che c'è una riscoperta, perché molti artisti contemporanei, adesso siamo a Torino, voglio citare anche artisti molto diversi fra di loro, quali, anche designer, quali ad esempio possiamo dire Pennone, Nespolo, usano la ceramica, certo. Però fanno riferimento o delle botteghe di artigianato o dei bravi ceramisti o anche dell'industria, proprio perché la ceramica è, quando si dice ceramica si vuol dire tutto e niente, è una materia molto complessa. Ceramiche si possono intendere mattoni, si possono le terraglie, si possono le porcellane, la faience, la cosiddetta, cioè, faccio un esempio, il mattone, la tegola, l'ornamento, quindi questo è un mondo dove c'è stata anche tutta un'argilla. Qui ad esempio in Piemonte abbiamo Cambiano che faceva tutti i trafilati, quindi è un mondo vastissimo. La terraglia serviva per ad esempio tutto quello che era la stoffiglieria. A Castellamonte, città dove io risiedo, dove sono stata appunto chiamata proprio perché non sono di origini piemontesi, c'è la terra rossa di Castellamonte. C'erano delle cave utilizzate, però questa tipicità, ad esempio di questa specificità del territorio, era molto ricco di ossido di ferro, quindi questa colorazione era molto rossa, l'F2O colorava in modo particolare questo impasto, che era un impasto che veniva chiamato la terra rossa, proprio perché è una colorazione molto particolare, questo colore molto intenso rosso, e poi perché aveva molte sostanze organiche, quindi la rendeva anche molto plastica. E quindi veniva usata per sia tutta la parte di stoviglieria, ma anche per i fregi architettonici e gli ornamenti delle case. E quindi diciamo che l'utilizzo di queste ceramiche della materia prima è proprio molto differente in base alla composizione dell'impasto. Ogni composizione di impasto ha una sua specificità che varia sia dal colore, ad esempio la porcellana è primissima, ma in Italia non abbiamo cave, le importiamo tutte o dalla Francia, o dalla Germania, o dall'Inghilterra, però ha delle caratteristiche specifiche, quindi ha la trasparenza, però ha bisogno di alta temperatura per cuocere. Poi abbiamo i grès, anche questi li importiamo quasi tutti. Ma ci danno delle caratteristiche, ad esempio di poter fare delle grosse sculture per arredo urbano, ma è tutta ad esempio questa ceramica per alta temperatura. In Italia di solito abbiamo la cosiddetta ceramica da maiolica, la terra grigia, che sono la terra rossa di Castellamonte, che sono delle materie plastiche argillose che possono arrivare a una temperatura di 1000 gradi. Ad esempio le colline di terra che è stata le cave di Castellamonte sono state trasportate fino a Sassuolo, dove venivano unite ad altre materie prime. Sassuolo sappiamo che è un centro dove si produce la piastrella, specifico, una grandissima produzione di piastrella, tanto è vero che c'è un museo a Fiorano Modenese sulla piastrella, e quindi veniva unita con altre materie prime che gli dà una caratteristica di fare sia piastrelle da pavimento che da rivestimento. Anche qui le due diverse caratteristiche, perché il pavimento ha una resistenza meccanica molto maggiore rispetto a quello del rivestimento, però c'è tutta la parte di ceramica anche legata all'arte, come ti stavo dicendo, che avendo bisogno di tanta cura quanto l'arte del vetro eccetera, gli artisti fanno dei progetti ma poi si avvalgono sia delle competenze ma anche dei macchinari. Tu capisci che per cuocere uno deve avere un forno in ceramica ha un prezzo e un costo, certo, che non si può permettere una persona per un'opera solo o più interventi artistici, e sappiamo bene che l'arte deve avere invece un'espressione di scelta di materiali a seconda anche della comunicazione che tu vuoi dare. Ogni materiale dà delle sensazioni, ogni materiale può dare delle diverse comunicazioni, non solo, anche dipende sempre da dove e come tu vuoi utilizzare questo materiale. Insomma, un monumento è chiaro che deve avere delle caratteristiche. Tu che tipo di materiali usi? I materiali ceramici o materiali artistici? Tutti e due. In genere, la ceramica, diciamo, sono nata e ce l'ho nel cuore, però come forme di arte uso anche altri materiali, quali ad esempio la carta, che è un po' in antitesi con la materia. Mi piace molto per questa sua fragilità, ma anche questa sua bellezza in base alla carta che si usa. Uso molto il piego della carta, proprio perché è di pieni di vuoti, ma questo anche un po', non so, con la modellazione della ceramica, perché modellare ha sempre un suo fascino, tu puoi mettere e togliere. Sei un piccolo demiurgo. Cioè ricrei... Io amo molto la ricerca del materiale, tuo microcosmo. Però trovo che un po' anche per la professione che faccio bisogna essere sempre estremamente aggiornati, conoscere. Poi un'altra cosa che uno mette in campo è che oltre alla preparazione ovviamente culturale, umanistica, che va sempre supportata in un progetto, che sia artistico o anche di altro genere o letterario, e in questo caso davvero ci va una conoscenza del saper fare. Quindi le tecniche, ma è la stessa cosa poi per quando si scrive, no? La parola giusta, il punto giusto. Tu sei anche autrice di libri di poesia, quindi fai entrambe. Che tutti questi miei interessi sono sempre volti al poter comunicare con gli altri. E allora la comunicazione, più linguaggi conosci più puoi comunicare. Certo. E quindi la conoscenza del mezzo espressivo diventa una ricerca e va sempre perseguita. In questo caso ti indaghiamo come ceramista, ma in un mondo di per così dire di materie plastiche e sintetiche eccetera, che significato ha fare la ceramista oggi? Dunque, devo dire che ha un valore molto etico, diciamo che ci sono degli oggetti che hanno loro, ad esempio tu la mattina ti svegli e prima cosa fai? Vai a lavarti la faccia. Il bagno di solito è tutto accessoriato da materiali ceramici, e non solo, tu a tavola la prima colazione con la tazza di solito in ceramica. Insomma, voglio dire che più di quanto noi pensiamo ci sono ancora oggetti che ci accompagnano quotidianamente, sono fatti in questo materiale, al di là poi della forma artistica, dell'espressione, i pavimenti, le case. Posso fare una domanda un po' strana? Cioè, so che ci sono dei lavandini che ho visto nei musei di lava. Vulcanica. Ma la lava è considerata ceramica? Allora, la lava è un supporto su cui applicare smalto ceramico e applicare un decoro, perché resiste alla cottura e quindi ti dà un prodotto dove tu puoi applicare sopra lo smalto ceramico. Perché noi adesso abbiamo parlato soltanto di terre, però in realtà la terra, cioè tutto il materiale ceramico, qualunque esso sia, può essere smaltato, cioè sopra possono essere applicati degli smalti e dei colori ceramici. E la lava ha le caratteristiche di questo materiale, e infatti la specificità è soprattutto in Sicilia di questo materiale, che però viene importato un po' tutto il nome per le sue caratteristiche di resistenza, anche di essere stato utilizzato come supporto per lo smalto di solito è uno smalto bianco, e queste decorazioni sono delle decorazioni molto legate ai prodotti del territorio. Di solito hanno degli agrumi sopra questa corrente, diciamo, di forma espressiva molto legata a quel territorio. Di solito questi prodotti arrivano, ne ho visti anche di più contemporanei, tipo in alcuni casi, però sono sì, poi in altre nazioni, anche ad esempio come in Spagna, usano moltissimo questi materiali perché sono molto resistenti, semplicemente perché resiste alla cottura, certo. E ti dà anche delle caratteristiche. Grazie per aver risolto questo mio dilemma che mi trascinavo da anni. E, che cosa tu, insomma, il tuo atelier a Castellamonte, che cosa succede a Castellamonte? C'è anche una biennale o una mostra annuale? Una mostra annuale di ceramica che io ho visitato, che è molto anche bella, nel senso che è proprio distribuita nel centro della città, e quindi però che cosa succede in questa città e quale ruolo ha nella ceramica nazionale o internazionale? Dunque, diciamo che la ceramica è comunque un'arte che, se a fine 800, inizio 900 aveva una grossa fermento, quindi aveva anche un risvolto oltre che artistico di economia, perché vi erano industrie direi in maniera molto più numerosa, eccetera, è distribuito su tutto il territorio delle città, proprio perché avevano le materie prime nel sottosuolo, di tradizione e di caratteristiche. È stato fatto questa operazione di riconoscimento a livello nazionale tramite questo ente che si chiama AICC, che significa Associazione Italiana delle Città delle Ceramiche, e Castellamonte è una di queste, sono 36. Perché è stato provato che storicamente ha 200 anni di tradizione, anche se ne ha molti di più in realtà Castellamonte, e perché c'è un'attività ancora di produzione, e quindi ci sono tutte le caratteristiche perché venga anche tutelata con un marchio, e con quindi questa città ha mantenuto negli anni anche questa tradizione della mostra della ceramica, che per il momento è ancora annuale, e siamo arrivati alla 53esima edizione. La mostra della ceramica e anche dei prodotti di design, proprio perché la ceramica in questo momento guarda in maniera particolare anche la produzione. Tu sei insegnante anche di design? Sì, è la produzione proprio, soprattutto in questo nuovo ingresso, no? Il design è una scienza e disciplina recente, quindi proprio perché si può fare sia design di pezzo unico, questo ce lo insegna anche il postmoderno, cioè fare gli oggetti anche senza una funzione, ma proprio per il bello, possiamo citare Mendini, Sozza, tutta una serie, ma anche fare design per pochi pezzi firmati, vedi l'Alessi che fa 100 pezzi per 100 design, proprio perché ogni, la forma è la stessa, poi interviene il design in maniera di decoro differente, quindi ha una collezione di un certo tipo. Oppure il design a livello industriale, dove oltre all'aspetto dell'oggetto in ceramica c'è anche, e quindi della sua estetica, c'è anche proprio l'aspetto della funzione che può avere l'oggetto in ceramica. Quindi devo dire che oggi si elabora molto. Poi pensiamo che ad esempio a Castellamonte c'è un prodotto che caratterizza un po' tutte queste città, hanno una produzione che viene caratterizzata. Sassuolo, abbiamo detto la piastrella, a Castellamonte abbiamo la stufa, quindi la stufa, capisci che anche c'è un piccolo tutto, museo dedicato alla stufa, c'è anche un museo dove c'è dedicato, però abbiamo oggi fatto le aziende hanno fatto delle scelte, devo dire, importanti, perché hanno delle collaborazioni col Politecnico, hanno degli ingegneri che studiano tutto la parte interna della stufa, la ceramica è soltanto quella esterna che dà l'aspetto estetico, però c'è un aspetto di... Che strano che un ingegnere studi una stufa, magari uno... No, la fumistica, certo, studia ovvio, tutto però, l'aspetto... Ovvio, però quando uno immagina la funzione dell'ingegnere si immagina... E devo dire che in questi tempi di crisi ha avuto un certo rilancio, proprio perché in queste città dove comunque la legna è ancora un prodotto che si reperisce. Quindi sono esclusivamente stufa a legna, no, o anche funzionano anche a pellet? Anche a pellet, e poi anche adesso stanno studiando, elaborando anche i sistemi con lo sfruttamento del sole. E quindi con acqua calda. Sono bellissime le stufe, sì. Che se la montano in queste decorazioni. E quindi alcune stufe sono appoggiate alla ricerca dei designer, e la scuola, grazie a questa ricchezza che ancora mantiene il territorio, può avere sia l'azienda che i designer, e può insieme concertare con una serie di progetti. Quest'anno ad esempio abbiamo messo in campo un progetto con l'azienda di Roberto Pirino e Silvana Neri, la Castellamonte, e dei designer Adriano, che sono di Torino, 80 decori per la STAC. Questa STAC è un progetto a moduli sia round che cubico, cioè quindi forma circolare che cubica, sono degli elementi modulari, dove i ragazzi hanno partecipato allo studio, hanno concorso allo studio del decoro esterno, perché la forma era già stata progettata. E quindi diciamo che sono motivati, anche perché io credo fermamente che finché c'è economia intorno a un materiale, c'è anche bisogno di educare, formare e anche creare degli elementi che pensano se no, però non esiste anche economia, è chiaro che il territorio si impoverisce e quindi si va a perdere questa che è una tradizione, ma vorrebbe anche essere una forma di innovazione, ecco. Certo. Passiamo un po' invece alla tua esperienza più artistica, personale, di questa parte che forse riguarda anche un po' l'aspetto educativo, eccetera. Invece la tua attività, la tua esperienza artistica legata in genere alle arti, ma alla ceramica, nasce, quando nasce? In un periodo preciso della tua vita, o quando da bambino uno scopre la sua creatività? Come decidi di darti, di proseguire, diciamo, questo tuo... Diciamo che io sono nata in un ambiente dove l'aspetto artistico è sempre stato considerato come una ricchezza. Una ricchezza intesa non come forma economica, ma come forma proprio di nutrimento dell'anima. Quindi si frequentavano gallerie, eccetera. Poi provengo da una città, Faenza, dove è riconosciuta in tutto il mondo proprio che c'è questo Museo Internazionale delle Ceramiche, quindi è stato abbastanza un percorso naturale e devo dire molto fortunato anche per gli incontri, per le presenze che poi si sono succedute nella mia vita, ecco. Poi ovviamente ho fatto l'Accademia di Scultura a Bologna, dove ho avuto docenti come Cortenova, come Baciglieri, quindi oltre alla formazione del saper fare c'è stata anche tutta una formazione scelta anche educativa, sì. Per cui mi è venuto abbastanza, devo dire, naturale, perché l'ambiente anche ero circondata da queste cose, però è poi anche diventata consapevolezza oltre che passione, per cui la passione ti porta poi anche a continuo studio, ricerca, confronti hai con coltivato altri. Coltivato la tua... Sì, questo mi ha permesso di avere delle collaborazioni con artisti, di fare mostre non soltanto in Italia ma anche all'estero, e quindi di avere un bagaglio abbastanza ricco, e spero di arricchirlo ancora, insomma. Certo. E forse sarebbe interessante tentare di descrivere le tue opere. A me sono piaciute, lo dico proprio da fruitore così della non addetto ai lavori, mi sono piaciute perché sia della ceramica, un'immagine se vogliamo anche relativa se pensiamo alla stufa abbastanza tradizionale, mentre nelle tue ceramiche ho trovato la contemporaneità, no? Anche delle forme, rappresentare certi elementi stilizzati dalla barca, quasi anche da un po' quasi illustrativo come approccio, e mi sono piaciute per questo motivo. Ma forse tu hai di te una visione ancora più ampia, cioè hai un piccolo lineamenti di estetica su quello che fai che potresti, cioè, dichiarare, non so. Ovviamente è difficile che qualcuno faccia un manifesto di se stesso, però insomma serve che uno si autodefinisse dal punto di vista della creazione. Dunque, è molto difficile, tant'è certo. Vero che ho fatto quel riassunto proprio perché è il più ampio possibile. No, quello però che ci hai letto sono degli elementi, no, per cui sì. Uno dice, boh, ti chiedono come scrivi, sì. Ovviamente hai un interesse magari più sperimentalistico oppure più no, o meno. Diciamo. Allora, io devo dire che è sempre abbastanza consapevole il mio operato, perché è sempre molto, diciamo che si collega molto al mio pensiero e alla mia ricerca, partendo sempre da un aspetto umanistico. Allora, quando tu vuoi dire delle cose, ovviamente ti documenti in base al linguaggio, al contenuto che vuoi, all'obiettivo che ti vuoi un po' così prefiggere. Ti faccio un esempio: quando tu lavori per committenza hai una richiesta e quindi anche in quel caso lì la richiesta, possiamo prendere ad esempio un monumento che rappresenta la città di Castellamonte, che trovi proprio nella piazza principale di fronte all'Arco di Pomodoro e fra l'altro in una zona tutelata dalla sovrintendenza, perché poi c'è la rotonda antollegnana e il campanile di epoca romanica. Quindi in questo caso qui, io dovendo rappresentare la città di Castellamonte, ho studiato che cos'era la città, da chi era composta, che i cittadini, quali tipo di, qual era la caratteristica che aveva dato vita e fatto questo nucleo. E ovviamente una parte era dedita alla ceramica. Tu pensi che fine 800, inizio 900 erano quasi 2000 gli addetti fra cave, lavorazioni e commercializzazione del prodotto, quindi fra estrazione, insomma, era oggi ovviamente è ridottissimo il numero, però al di là di quello, per dare una testimonianza del contemporaneo, ho pensato che era bene che la città facesse un concorso con un'opera realizzata in ceramica, e dall'altra parte invece i cittadini erano impegnati nell'agricoltura, perché ci sono tutte coltivazioni di mais, frumento, prati, insomma, e quindi ho voluto rappresentare queste due grandi realtà sociali che caratterizzavano un po' la città e i suoi abitanti. E ho trovato questo simbolo della brocca, perché la brocca era una forma molto utilizzata, una forma fra l'altro molto interessante, che si chiama il picciol, proprio perché fra l'altro dal punto di vista estetico è molto affascinante, perché la brocca se molto sinuosa, in realtà è una brocca molto mastile, perché ha questo beccuccio che utilizzava, fatta dai ceramisti, ma che utilizzavano i contadini per dissetarsi durante la giornata. Quindi hai unito entrambe gli strati sociali. La brocca che viene chiamata picciol conteneva la picerla, che era un vino, che era il vino diciamo più scadente, più acidulo, quello che dissetava di più, quello che i contadini bevevano, perché il vino migliore lo vendeva. Capisci? Per cui ho unito tutta la parte così del di rappresentanza di questo momento, rappresentando proprio quello che era la realtà. E questa è una ricerca. Però, ad esempio, mi viene in mente, prima sfogliavamo il mio catalogo, Dimore dell'anima, ho trovato questo simbolo molto forte, che è una sintesi e che può essere una casa, proprio perché è una dimora, che però se tu la metti verticalmente è appunto la casa, se tu la metti orizzontalmente può essere la barca, quindi significa il viaggio. Se tu la metti invece nell'altro senso, verticale, cioè a 180 gradi, è la bara. Per cui la dimora dell'anima vuol dire che è quel simbolo molto forte che ci accompagna tutta la nostra vita, la nascita, ma che ti dà la certezza della morte, ma nel mezzo c'è il viaggio, cioè il nostro viaggio, quindi questo simbolo forte. E ho fatto un'installazione con circa un centinaio di queste dimore, una diversa dall'altra. Quindi riporteremo una dimora dell'anima ad un divago, se tu vuoi o se possiamo. Va bene, certo. Sceglierai tu quale dimora sia più adatta. Però le architetture mi hanno sempre affascinato, perché sono dei contenitori di nuovo di umanità, certo. Insomma, quindi. Quindi intendi anche queste opere, anche le intendi come architetture? Sì, le dimore sono delle architetture. Delle micro architetture, sì. pensato. Va bene, io ti ringrazio, abbiamo già sviscerato alcuni aspetti di un'arte che non conoscevamo. Tu hai anche un sito, forse puoi dirci come si chiama, lo so io. www.sandrabaruzzi.it, molto semplice. Ondivago.com.